fare un buon intervento su una caldaietta autonoma, piccola, e, insomma, corrono dai 30 ai 40 minuti. Questo quindi bisogna diffidare da quelli che ci mettono molto meno, perché vuol dire che non fanno molto bene il loro lavoro, e anche, insomma, il prezzo, diciamo così, deve essere commisurato a questo tempo, grosso modo, insomma, ecco. Quindi penso che intorno alle 70-80 euro di costo sia una cosa equa, però questo dipende molto dalle situazioni, e il consiglio più importante che bisogna dare, e che mi sento di dare agli ascoltatori, è appunto quello di non affidarsi al primo che capita, ma farsi fare più di un progetto, anche se abbiamo il nostro bruciatorista di fiducia, eccetera. Ogni tanto è bene farsi fare qualche altro preventivo, sottoporglielo, magari anche lui cambierà idea. Esatto. Non lo so, magari non ricordarsi che dobbiamo fare questo controllo proprio a ridosso della riaccensione dell'impianto, pensarci con qualche settimana di anticipo, così. No. Questa è una cosa anche molto importante, perché le caldaiette autonome, parliamo di queste, essendo quasi tutte a gas, il problema dei residui non si pone, quindi può essere fatto tranquillamente anche durante l'estate, in agosto, in settembre, eccetera, eccetera. Quindi non aspettare il momento di dover riaccendere la caldaia.